roba. No, scusa, vorrei riferire una cosa, troppo adesso. E 9 arriva a me già, come vedi, tu ce l'hai di fronte, io ce l'ho di fronte, siamo visivi tutti e due per lui, abbiamo lo stesso segnale di eccezione, è un problema proprio di copertura, Eugenio. Lui c'ha una zona che per Porto Torres ha delle difficoltà, sicuramente su di te perché c'ha Monte Oro davanti, mentre io e Gianni siamo visivi, il tuo segnale 9 qua, è perfetto, perfetto. Da Caniga, ti ho detto, zona Caniga, Caniga, dietro Monte Oro. No, e qua ci sono tanti apparati, pure di tutto. Non lo vai. Comunque c'è una ricezione da paura, come gli altri non sentono mai che lo spaziano io. Io l'ascolto anche quelli di sotto, sotto, sotto, sotto. Oh, no, mi devo allontanare, che... devo controllare la pista. Anche tu, ehi, qua, alle 8. Alle 8 devi andare a prenderle. Che le sta facendo preparare al tie-break. Ilaria, sei andato a prendere il ragazzo. Ma lavoro che c'è la macchina a fare il tagliando. E quindi pizza a volontà stanotte. Pizza, panadas, kebab, gelato fatto da loro, di tutto, di più. Stanotte mi impicco, faccio il pipistrello anch'io stanotte. E poi Juventus, anzi Porto Juventus. No, la stavo mangiando in grasso. No, no, no. Roba buona, roba sana. Che cazzo, non ci ho avanzato i polpetti già a pranzo, tanto c'è buono, già qua. Qualche giorno ci andiamo, una cosa così buona per le polpette, sono della genuina di Proache, ma buone, buone, buone, fanno sia di carne che di verdure addirittura. Sì, sì, la genuina la conosco, conosco anche la proprietaria, fa le salsicce buone, non solo, hanno i vesti a mai loro. Sì, siamo Maria, siamo Maria, Solinas, conosco Antonello, Solinas, sì, conosco al fratello, conosco a tutti, conosco, li conosco. Marco, ma non è che si è parato lo gomolo? No, no, sono qua, aspettavo di essere rilanciato. Ciao Gianni, ben entrato, Gianfranco sta controllando la pizza. Oggi noi pollo con le patate, ho detto mi ben cotto, mi che non sia crudetto dentro, quella pelle è la parte più buona, pelle con carne, mi, mamma mia. Concentrato di colesterolo. Eia, beh, tanto mi, di qualcosa dobbiamo morire. Mi piace anche a me, ma sto scherzando, io gli metto un goccetto di olio sopra per farla croccante, cazzo mi piace così. Aspetta, eia, invece un giorno voglio un pollo arrosto di quelli di Auchan, polletto arrosto voglio, me lo voglio spranare così, magari piccolino, no, così ce lo mangiamo in due, da non lasciare nulla, mi nemmeno un filettino di carne, sempre pollo arrosto, io voglio il pollo arrosto, è bello, sai, bello salatino, mamma mia che buono. Guarda, a me quelli che fanno le vertice di pollo non piacciono, sono troppo asciutti, a me non piacciono, mi piace più come lo faccio di accanto. Non lo so già, forse cazzo che bel gong, forse bisogna comprarli appena fatti, che sono più umidi, poi si seccano man mano che stanno lì tutta la giornata. No, ma ragione Gianni, a me piace più fatto a casa, se lo sai fare a casa esce un buon po'. Eia, ma, no, arrosto no, non l'abbiamo fatto, avevamo anche il microonde grill combinato, in modo da farlo rosolare bello sopra e cuocere dentro, ma no, non l'abbiamo mai fatto. Certo, caspita, se vai a fine serata, io mi ricordo che c'erano i VQ Pran, no? Che verso le 7:30 erano lì da Auchan, in zona rosticceria. giravano sempre lì, no? Appena davano il bando, voli a metà prezzo, vai, solo che erano secchi. Erano secchi perché erano stati tutto il giorno a girare lì nel girarrosto, a stare al caldo, capito? E ma loro, poveretti, per pagare poco, se lo compravano così. Ma perché ci quanto lo paghi poco? No. Comunque ci vuoi comprare giù un pollo del genere, cotto ne compareggi due, devi fare a casa. Dillo ai negri, non lo so, loro aspettavano proprio i prezzi dimezzati, magari non sanno nemmeno cucinare quei disgraziati. Poi spesso, una volta un poveraccio ha chiesto se le compravamo una scatoletta di tonno per farsi la pasta col tonno, proprio un piatto povero. Oh, a me piace un baby pasta col tonno. Poi se la fai come faceva l'amica di mamma, ovviamente a pennette, no, che vada dentro il ripieno, ci metti una scatoletta di tonno, poi uova sode, quelle spezzettate e rosmarino, buono, veramente buono. Orecchiette, orecchiette, comunque la roba lì, oggi a pranzo, sai cosa ho mangiato? Orecchiette alle sarde, ci ho comprato due di piatta alle segni, le ho tutte pulite, lavate, fatte il soffrettino, aglio, prestemolo, peperoncino, cipolla tritata, ma ti dico, la fine del mondo. Vero genio, buona sardina che maledetta, e fa bene. E anche io, oggi, devo dire la pura verità, neanche io, ho mangiato il pesce mia figlia che un po' sta mollando, capito? Però le sardine, i zerri a me piacciono, sardine arrosto e zerri arrosto a me piacciono tantissimo. Gianni, cosa dici? Sì, ho pesce, claro, ne mangio pochissimo, sono molluschi, mangio, crostacei, di mare, ma pesce proprio non ne compro mai. Allora ci abbiamo anche, io ti dico più chiaro, ci abbiamo anche i buoni per fare la spesa, allora da noi. Se potrei comprarlo con i buoni, non ne compro mai, faccio la spesa normale, pesce non ne compro mai. E anch'io ho i così ticket, ho io, come ci rientri, però li accumulo, a volte ci do mia moglie, a volte li accumulo e prendiamo la pizza a fine settimana, poi andiamo a mangiare la pizza, sono da 7,50 l'uno qui, capito? Però no, vabbè, a prescindere da quello, no, neanche io ne mangio pesce già, però per dire, le sardine, no? Non è che si possono fare a casa, perché non si possono fare, però io a volte le prendo, le faccio in verde come faceva mamma, integame, no? Aglio prestemolo, e basta, sono buone, sono molto buone, squisite, quando è grassa la sardina è buona, e poi fa bene perché il pesce è duro, un pise ogni tanto arrosto per dire al forno con le patate buone, ma non sono amante di pesce io, assolutamente. A me il pesce che piace lo sai che sono, erano i fritti e famoso la playa. Il pesce padulo. Quello è, fa bene ai pipistrelli, a prendere a colpi alle alimi. Veglia, invece io stravedo meno per quella roba fritta, calamari. Non lo so, preferisco più merluzzo, nasello, quei pesci là, che contengono omega 3, insomma sono... Anziché mangiare carne dovrei mangiare più pesce perché non ha, ha meno grassi o non ne ha, insomma, è più sano, in poche parole. Interrogativo, secondo loro peschi fa più male della carne. Ti puoi assaggiare a mangiare calamari fritti, ti ringhiriti tu. Già lo so, però se pensi che adesso il pesce è inquinato, cioè se pensi a tutte le cose inquinate non mangi nulla, allora non lo sapremo mai, pazienza. Calamari fritti buoni, però chi è che li fa? Perché i viagurici forse erano un po' gomosetti, mi dicono in regia. Gomosi, scusi. Ah, faceva i buoni quando c'era mio compagno, ma io sapevo che importava anche i calamari, importava un amico mio, quindi mi ha detto già, sono di prima, mi stanno calamari di prima. No, ti preoccupare, vai tranquillo a mangiare, che quelli sono come quelli freschi. Sono calamari in prima, sono pescati e sul gelato. E al bowling avevate detto che si mangiavano frittura di mare buona, calamari fritti, erano belli croccanti, non gommosi. Io ho mangiato, perché io so che con la forchetta e sul mangiare non mi finisci più, so scegliere bene. E quindi forse uno, mi sa che non ho mangiato da altre parti. Per esempio, invece l'insalatina e frutti di mare, così, preferisco più i surimi, insalata. Cosa potrei dire? Vabbè, se c'è, giustamente, se calamari fritti sono belli croccanti, allora sì, ma quando sento la gomma, mamma mia, per carità, mollo tutto, proprio non ne mangio. Invece, vabbè, gamberoni mi piacciono, so che se li fai così, sia rossitelli o in verde, non è come mangiare gamberetti. Buoni sono sulla brace, belli spalmati di olio col prezzemolo, è indescrivibile la bontà, per me, sono gusti, dai. Certo, ma a me piacciono anche i polpi, i surimi, sì, li mangio, mi faccio insalata con le cipolle, sedano, pomodorini, eccetera, ma sono buoni anche i surimi dei grandi, però dicono di grandi non c'hanno nulla, c'hanno tutti di polpa di pesce, di pesce, dopo che fanno il filetto, quello che diciamo rimane, lo mettono, lo macinano, fanno queste qua. Sì, infatti del granchio non ha quasi niente, ha un sapore un po' indefinito di pesce, cioè di granchio manco l'ombra c'era in me. Poi c'è questo supporto, non so cosa sia, c'è il grosso del materiale, non so nemmeno cosa sia. E la polpa del granchio, chi l'ha mai mangiata? Granchi arrosto, lo so, i granchi come si cucinano? E sono buoni, domanda, o sono puzzinosi? Bolliti si cucinano, poi si possono cucinare con il sugo per la pasta asciutta, ma il granchio diciamo che da solo il sapore è buono e poi non venire da mangiarmi, è roba che si mette in mezzo per dare il sapore, si spacca le due, quello che c'è dentro al granchio dà il sapore asciutto. Eia, cioè tutto guscio è... Vabbè, non è come i gamberi, certo. Però mi sta venendo fame, solo che i gamberoni non abbiamo. E come si fa? Con quello niente. In campagna è il bello che possiamo fare alla griglia lì, la mia zia. Allora sì che sono buoni. Però in casa sono sprecati, capito? Poi una volta mia zia però ho detto, guarda che sono belli umidi. No, altri 5 minuti, ti ho detto che sono umidi e pronti, no, altri 5 minuti, risultato una volta li ha fatti asciutti, secchi dentro, asciutti, cioè, bastava dare retta a quello che avevo detto io, ne avevo giusto assaggiato uno e ho detto guarda che è perfetto, no, altri 5 minuti, e allora lei è di lì, ma... Ma facciamo? Oh, un attimino, arrivo subito. Come Gianni? Senti. Come mi ha detto Gianni, a Platamona. A Platamona. No, ho detto, chiamato di lì. No, ho detto, ne ha fatti a rosso. Non ti capisco. Come non mi capisce? Sto parlando in italiano. A rosso ne ha fatti. Così, avevo il volume un po' basso già. E sulla griglia, sulla brace proprio, sulla brace. Bene, girati, so che se avesse detto, se avesse accettato come ha detto io, guarda che sono pronti, e lei, no, ancora 5 minuti. E abbiamo mangiato gamberi secchi una volta, un po', non secchi, un po' asciutti, no? Parliamo, gambero deve essere anche bello che sa di mare, no, cazzo, umido. Ho sentito Benito, ma Benito, sì, Eugenio, che ha detto la Nutella, io sono un cultore della Nutella, l'ho mangiata da quando ho memoria, me la spalmerei anche tutta addosso, lo sai, me la leccherei da dosso la Nutella. Tris, tris. E anch'io certe volte col cucchiaino piano piano l'astio, cioè mi, ma la mangio anche al cucchiaino, capito? È troppo buona, troppo buona. Con le fette biscottate, mamma mia, col pane, in tutti i modi è buona. Nutella e banane, cioè ti apri una banana con il cucchiaino, quello che c'è, gliela spargi un po' sopra e ti mangi Nutella con la banana, è buonissima. Avevo mangiato anche le crepe tanti anni fa, le crepe con Nutella e banana, crepe calde, no? Mamma mia, non te ne dico niente, Eugenio, da svenire. Ma come non piacciono i gamberoni con gelatina? Mi piacciono fatti integrare i gamberoni, come li faccio io. Olio, taglio prezzemolo, peperoncino, un po' di limone sopra e pomodorini piccoli. Tanto così e un po' di vino bianco, così te lo metti lì. Sì, in realtà sono buoni, cioè quando mamma li fa in verde così, tipo questo che hai detto tu, li mangio, però devo dire che fatti sulla brace, sempre spalmati con quella soluzione di olio, prezzemolo, aglio, quello che c'è, devono essere belli umidi, belli spalmati, no? Come li giri. Li preferisco arrosto perché ha un sapore di, non lo so, è diverso, anche la carne, se fosse fatta tu, mi sono impapinato, la carne fatta sulla griglia a me, per me è sempre più buona, mi piace quell'aroma di affumicato. La carne sì, la carne la faccio, la carne anche quella di pollo buona, no? Ma i gamberoni mi piacciono troppo, non mi piacciono, a me piace un po' il sughetto che devo mettere sopra, sono un'altra cosa, fatto integrare. Aspetta. Insomma, alla fine serata mi sta venendo, a parte mi è venuto un colpo di caldo un po' qua, perché sono troppo coperto, mi sta venendo fame. Certo, mi dovrò accontentare del pollo, così che da poveri. Poi, per esempio, una cosa che non ho mai assaggiato, credo, quello che vedi con quella rete intorno, il roast beef. Forse è un matrimonio l'ho gustato, però non me lo ricordo. Gianni, com'è? È buono? È morbido? Sì, diciamo, ci ha potuto fare, è discreta, c'è la pancetta dentro, l'hanno colato, dice, sì, quello io l'ho sempre visto, va bene, i giornali di cucina l'ho visto con quella reticella di spago, no? L'ho mangiato ai matrimoni, però devo dire, per quanto mi ricordo, quello era un po' asciutto dentro. Me lo immaginavo bello più umido, invece era un po' asciutto. Però il sapore, grosso modo, era buono, insomma. Dipende chi lo fa, come lo fa. I cuochi non sono tutti uguali. Infatti. No, ma già rimane un po' asciutta, ma come carne. A me, cioè, diciamo, è molto speziata all'interno e non è che mi attiri tantissimo, però già si può mangiare, non è che sia così cattiva, mi attira tanto. E mi attira molto, a me mi attira molto la carne impanata, queste cose qua, mi piacciono pure, adesso il fegato. Oggi sono andato a un concerto a carne, il cazzo ha fatto una spesa, ho speso 22 euro, ho comprato una marca di carne per Tyson. Praticamente è carne che vendono con i cristiani, però non l'ho fatta per carne. Carne di cavallo, vaccinata, l'ho pagata a un punto e me l'ha dato per 20 euro, adesso mi basta chissà per quanto. E poi ho preso pezzi di pollo, spiracine, tutto a poco prezzo. Il fegato, cazzo, era bellissimo, tutto il sacco discendeva, era proprio fresco fresco. Ma non era una sarda però? Non lo so che non è sarda, perché è nazionale. Che sia sardo no, me ne affutto. È così buono il fegato arrosto, come ha detto Gianni, un po' sanguinolento. Buono, buono. Invece nonno, tanti anni fa, quando ero piccolo, faceva il pesce spada, le fette di pesce spada arrosto, no? e gli levavi quel bordo nero che poi sarebbe la pelle. Ma all'epoca costava meno, adesso il pesce spada costa un capitale. Non capisco come mai sia così alto il pesce spada attualmente. Infatti noi non ne facciamo. Ne mette poco di spine. Avete poco di soppa? Certo, ne mette poco di spine. Allora, il fegato con quello, io il fegato lo compro con la rettina. Capito? Lo metto, lo faccio e mi mangio tutto, pure la rettina. Ben, Mogol. Buonasera a tutti. Buonasera. Com'è? Come stai? A posto, a posto. Ok, è andato? Sì, da Poletto. No, te la sono fatta, sono andato. Pensavo che di là. Va bene. Compagnia mia ancora per poco, perché adesso mi preparo una scena giù col cane. Aspettami a Genova, poi chiudo tutto perché c'è la partita. Se ci siete ci sentiamo dopo, anzi vi saluto già adesso. Ciao Stefano, genio. Gianni, Marco e chiunque fosse in ascolto. Ok, scendo a portare il cane e poi risalgo, dai. Ci sentiamo dopo se ci siete. Fai per chi vuoi, Ste. Sì, ok, ciao, alla prossima, ci sentiamo presto. Prego, Gianni Doppio Rum. Ciao Ste, mi senti? Scusami se ieri non ti ho chiamato, ma ho finito tardi, quindi ho preferito non chiamarti, dai, magari sta facendo loro. Ci sentiamo un altro momento, eh. Non c'è problema, tranquillo, tanto che io avevo impegni qua e quindi non ti avrei potuto accontentare, diciamo. Ok, a te Marco. Ciao Steve, ho visto un messaggino su WhatsApp, poi stavo caricando due smart, l'ho spento per caricarlo, per fare in fretta, e poi l'ho lasciato spento tutta la sera, me ne sono dimenticato. Ho visto il messaggino. Bene, e stiamo parlando di roba da mangiare, perché a quest'ora, vabbè, io pranzo, gli altri cenano, ma siamo sempre mangiozzi. Capito, il pesce spada costa un capitale, mentre prima lo facevamo, ma ti sto parlando quando ero piccolo, negli anni 70-80, adesso costa un sacco, boh. Mi sembra che lo portino a dorso di mulo dal mare, boh. A noi ci arriva sotto un vuoto, papì, sotto un vuoto, prima ci arriva anche il terro, l'estate ci arriva il terro, lo compriamo, lo vendiamo l'estate, ma l'inverno lo fanno fare solo sotto un vuoto. Ehi, ciao Eugenio, dai, buona serata, ci sentiamo domani, tanto qua si svuoterà presto causa partita, non per me certo, io mi guarderò la TV, mi guardo altro. Ok, vai Gianni per i saluti. Sì, io l'ho già salutato, ma me ciao Eugenio, ci sentiamo, dai, buona serata, avanti te. Ciao Eugenio, io non lo sento. Non lo sento, forse lo neanche a me, ma comunque, buona serata e a presto sentirci, ciao ciao. Bene, bene. E voi lo conoscete il surstroming? Allora, il surstroming, che sarebbe pesce fermentato, no? Viene scatolato, viene fatto parzialmente putrefare, poco, poi viene aggiunta una soluzione per bloccare la putrefazione, viene messo in scatole sigillate, tant'è che come continua a fermentare, alle volte queste latte sigillate si gonfiano un po', no? Vi dico solo che se lo aprite in casa, se fate l'errore di aprirlo in casa, parte la lattina è sotto pressione, quindi spruzzerà. Dovete evacuare l'appartamento dalla puzza di marcio che fa. Se andate su YouTube ci sono le prove. Ma gli intenditori norvegesi, finlandesi, non mi ricordo di dov'è, lo trovano buono. Però certo non si mangia così a forchettate dal barattolo. Si toglie la pelle, si prende un filettino di pesce, no? Si toglie la pelle, lo sminuzzi e ci aggiungi cipolla, panna acida, non so, qualche ingrediente vegetale, e si mette dentro una piadina, tipo piadina riscaldata, e si mangia. Dovrebbe essere forte di gusto, ma sai, mischiato a tutto è passabile. Non so se avrei il coraggio di gustarlo, perché per ovviare alla bussola devi aprire all'aperto e devi immergere il barattolo in un secchio d'acqua, in modo che sia lo spruzzo che l'odore vengano parzialmente filtrati, capito? È simile al fesic egiziano. Fesic è proprio una schifezza. Pescano i pesci, li lasciano marcire al sole, mezzi essiccati ma mezzi marciti. Poi bisogna avere il coraggio di assaggiarli, ma è una cosa, a parte che quello lasciato all'aria proprio è pericoloso, anche a livello alimentare è pericoloso, perché può beccarsi qualche schifezza tipo botulino, insomma. Eppure esiste questo pesce fesic, quelli zozzoni egiziani lo comprano sfuso il pesce e non se lo portano a casa, così hanno il coraggio di mangiarselo anche. Gianni è svenuto, mi. Per carità. Diciamo, sono specialità locali. Comunque il surstroming lo vendono anche su eBay, è il caso di provarlo. Però, ripeto, va. Beh certo, ci sono il modo per mangiarlo, no? Se è una specialità locale a noi poco piacerà, ovviamente, perché non siamo abituati, ma loro sì. Guarda, per esempio, se tu dai a uno europeo il formaggio con i vermi, io dico che gli viene lo schifo. Eppure a me, personalmente, a me piace. A Campanella l'avevo provato la prima volta, si levavano quelle larvette che non sono vermi, sono larve. Toglievi le larvette che riuscivi a togliere, poi quelle che erano dentro, pazienza, pigliavi un tozzo di pane, appena di formaggio perché è fortissimo, e mangi. Ed era buono. Se lo mai dai a qualcun altro magari sviene, che ne so, gli fa schifo. Sì, vabbè, no, a me non piace. Gianni. Te l'ho detto che è svenuto, è andato a vomitare. Oh, qua, ma mi sta facendo un po' di questa. Io non la mangerei manco a pagamento per quell'odore della putrefazione, manco per le fare. No, il problema è che mi sono un po' assorbito perché sono svariati minuti che non dormo bene. E quindi sono un po' stanchino. Quindi sono riuscito a fare la spesa oggi e non ho riposato la portata, quindi mi ha fatto un po' il sonno, anche per cui mi sono addormentato. Ehi, già sì. Insomma, ognuno ha i suoi cosi, noi abbiamo il caso Malzu, o come si chiama, che a me piace, certo è fortissimo, e puoi mangiare pochissimo e con molto pane, perché sai quel piccante amarognolo è molto forte. E io ho visto video di gente che vomitava, perché cioè apriva il barattolo, pigliava un boccone pieno e se lo metteva in bocca, no? Non funziona così, a parte dell'odore proprio. Deve essere terrificante l'apertura, proprio di putrefazione, non lo so. Però una volta tolta la pelle, tolta quella mucosità che si trova intorno al filetto, te lo fai con quelle verdure, con la panna arcida, insomma usi tutti gli ingredienti che dice la ricetta, lo metti in questa piadina, lo arrotoli. Loro dicono che è buono, i norvegesi o insomma questi qua che lo mangiano. E beh certo, lo dicono che è buono, certo che sarà buono perché loro sono abituati e noi no, alla pietanza che loro magari prediligono. Sì, ma ho già sentito parlare di queste cose, ho già sentito parlare di questo tempo fa, perché no, non fa per me. Ehi, però il gusto di provare, anche sentire l'odore, per dire, deve essere un'esperienza molto forte. Invece una volta Bear Grylls, quello che fa il programma di sopravvivenza, no? Quella specie di tuareg, quelli con il turbante nel deserto, no? Gli hanno dato da mangiare testicoli crudi di caprone, perché dice una cosa virile, no? Mangiare. Loro li mangiano come fossero moncherì. E lui ha vomitato, proprio ne sono usciti gli occhi. Ha detto è una cosa rivoltante, parole sue, rivoltante, sai, proprio da uscire nella budella. No, ma da uscire non ce ne fuori, capite? Ehi, ehi, ma strani gusti, boh, non lo so. Cioè, molte popolazioni mangiano cose che sembrano immangiabili, eppure le mangiano, le digeriscono. Ho visto anche video dove i giapponesi si mangiano enormi lumaconi crudi, cioè prendono queste conchiglie enormi, tolgono il mollusco, che è una cosa, già vederla è una cosa indicibile, lo tagliano a pochettini, no, con questi coltellacci affilati, e se lo mangiano crudo, cioè mollusco crudo, mi non lo so, i giapponesi non lo so, non lo so, lì non, ecco, lì non ce la farei, non so se ce la farei, perché bah, come mangiare lumaconi crudi, mi Gianni, te l'hai portato il bacile per vomitare? No, perché noi non mangiamo le patate, ma la stessa cosa, non so se sono lumaconi di mare, poi sono grandi, da mangiare, perché le patate non le hanno mangiate? No, no, no, mi fanno ribrezzo già, proprio un giorno ho provato, mi stava facendo schifo. Poi c'è Piero D'Amico, mi stavi facendo schifo. Poi non mangio roba cruda. I bocconi sono rivoltanti anche cotti. Li ho provati una volta, mai più. Io mangio solo le cozze. Le cozze. Però non mi dare pastelle, non mi dare bocconi, capesante non lo so. Delle capesante dicono siano buone, però vedere questo mollusco enorme in questa conchigliona mi disturba un po'. Non lo so se riuscirei a mangiare, ovviamente cotte, ben cotte. Boh, da provare quello. Quelle non le ho mai mangiate manco delle capesante, però dovrebbero essere buone, dai. Tutti io quando andavo a pescare facevo le ostriche, facevo patelle, bucconi, quando arrivavo lì, ma le ostriche la prima ma ce le facevamo con il limone a pesce, e ne ho fatto parecchie, ne abbiamo mangiato un bel. Ehi. Poi anche io non mi fido a mangiare molluschi crudi, proprio non, tranne il riccio. Riccio, vabbè, la polpa di riccio, boh, non so se faccio bene, però il riccio filtra tutto quello che trova sul fondo, è una specie di filtro, magari è tutto intossicato dentro, se ne so. Per esempio le vongole, mamma le fa spesso con gli spaghetti, però a me le vongole non mi dicono niente, sono delle cacatine, non hanno spessore, sono piccole, non... Guarda, preferisco di gran lunga spaghetti alle cozze, spaghetti ai ricci anche, ma le vongole sono delle fesserie, non sanno di niente, sono piccole, non hanno consistenza, boh. Quello è vero. Quelle vongole devi mettere a bagno nell'acqua salata una notte prima, perché sennò ti mangi il sale. Esatto, già, esatto. E quelle stanno lì. Riprendi se. Un attimo, sono al telefono. Come le fanno le vongole? Se vedo me la dove le prendo, non le mangi più. Riprendi, dimmi se. Sono al telefono un attimo. Non conosce la zona. Io avevo lì una casa dietro Usciano, a Uglia. E dove c'è quell'anfiteatro, facevamo le passeggiate, la mattina presto e cose. Una volta ho avuto questo qua che raccoglieva le vongole, è presente la nave che fa tutti gli scarichi, c'è tutta la schiuma e tutto. E le vongole erano lì in mezzo. E va bene, magari se uno vede dove crescono, come le prendono, magari non le mangia più. Però io sono cozzofilo, piace la cozza sia di mare che di terra. Aspetta, ma mi sta leggendo già su Facebook. Cosa è successo su Facebook? Ha messo la fotografia di questa pupa con il cane che si vede tutto quanto va a fare. Ma chi l'ha messa? Pomponio? E allora? Ehi, ma lui sta sempre con queste oscenità. Se c'è un bel di gente su Facebook, poi è pubblico, non è roba da mettere, dai. Già è troppo che me ne mandino tramite come si chiama, no? Uffa, non mi viene il nome, tramite WhatsApp. Poi se mamma tocca il telefono, cosa ne so, per usare la fotocamera mi vede tutte queste zozzerie. Ci siamo andate, ora Pomponio, po' da un'altra persona, diciamo, dall'alto. Anche a me un po' da una persona, perché a volte stai facendo vedere qualche cosa, qualcuno ti appare, magari te ne sappi, che lì c'è tanta cosa, te ne casa e te ne subito avanti, magari una persona non una certa cosa. Per dire, io ho fatto vedere al dottore, c'è tre fotografie del piede, no? Ho fatto le tre fotografie e ho dovuto scorrere un bel fretta perché c'era la fotografia di questo qua che era per qualcosa di nuovo. L'avevo mandato un amico e senza volerlo sono ficcato lì. Adesso mi ha ricordato una cosa, eravamo in una sala d'attesa di medico, non privato, e per fare sai prelievi, c'era una persona che conoscevo, no? Più conoscente che amico, e avevo lettore DVD con all'epoca con quei lettori DVD DVX, no? E visto che c'era gli volevo far vedere una cosa che poteva interessargli, no? Se non che ho sbagliato e c'era un video porno di un tipo che veniva in faccia una tipa e poi tutti i suoni col volume alto, quello si è capotato da ridere, io sono diventato rosso perché c'era altra gente, cioè sono andato a far rivedere un filmato e invece c'era un altro, capito? E poi il volume era alto, quindi per carità, che vergogna, guarda, quello ridendo. Allora, quello mi è capitato anche a me una volta che sono andato a una cena di due amici che si erano sposati da poco e ci volevano far vedere prima del matrimonio il viaggio che avevamo fatto, no? Dai, venite tutti quanti in greppa che ci fa piacere, eh? E siamo andati. Bene, è questo che l'abbiamo fatto apposta, no? Mette questo filmino, grazie, c'era questo tipo che con le trozze bici girava la pasta asciutta e la femmina che te la mangiava. Ah, così è. E quella volta poi sai, nell'istante in cui si apre questo video inopportuno, sai, ti viene il panico che non trovi il tasto per bloccare, che vergogna, guarda. Guarda. E vabbè. Io che ne sono. E ancora ce ne vuole. Che mamma si deve vedere Bonolis fino all'ultimo e poi mangiamo, mamma mia, è venuta adesso questa, è stata tutta la sera a casa a guardarsi, o la D'Urso, o su Marco Polo, film, documentari su animali e dopo si guarda Bonolis, tutti i giorni così buttata, e non vuole uscire, non vuole uscire, anche se dico, ah, usciamo, ci prendiamo un caffè da usciamo, no, no. Capito? E poi rischio di fare la fine anch'io perché da solo non voglio uscire e alla fine non esco mai. Via. E vado più uscire, ma non riesco mai, ma poi sottostare solo a quello che fa tua madre. Non voglio uscire, vedi, c'è una certa età, ma sei giovane. Giovane è uno con 90 anni, vabbè. Insomma, potessi tornare a 18-20 anni lo rifarei mille volte. E anche prima. E sì, insomma, a me fa piacere anche farla uscire, però se poi lei non esce, alla fine non esco anch'io. Domani mattina andiamo a fare commissioni in macchina, dobbiamo andare all'Inps e poi non so dove. Quindi devo dormire bene. Stanotte invece ho dormito di cacca, Gianni. Ho dormito male, con sogni molesti, ricorrenti, proprio ho dormito di schifo, mi sono girato nel letto un milione di volte, lo sai, non c'era modo di dormire, nemmeno con la pastiglina aiuta per aiutare il sonno. Io ho 3 o 4 minuti, non so. Sì. Già sì, un paio di notti ok. Sarà questo fastidio la trachea un po', come ha preso freddo, mi dà un po' di fastidio la trachea, poi appena sento la corrente fredda sul collo sento pulsare la trachea, capito? Mi prende subito lì, capito? Quindi devo stare bello riguardato, non devo pigliare spifferi, se no poi se peggiora devo stare con la voce magari brutta o devo stare a letto. Bene, bene. E tu devi andare a portare il cane già, tra poco? Sì, dalle 8. Qui c'è un lavoro da fare, ho comprato la casa, adesso devo fare a pacchetti, perché deve uscire. Ci metterò una mezz'oretta a farlo da me. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, Salvatore. Ciao Gianni, ciao a tutti quanti. Giusto un passaggio per salutarvi. Grazie Salvatore, sei un amico. Almeno tu ci saluti. Ciao anche a te, mi hai sentito la settimana. Avanti. Ciao Salvatore, ben entrato. Ogni tanto ci vuole un saluto a tirar su, dai, visto un po' così come sono io almeno. Stavo parlando di roba da mangiare, gusti, preferenze, ognuno ha i suoi gusti in cosa alimentare, dai, capo alimentare. Ah beh, quello è poco ma sicuro, poco ma sicuro. Io poco fa mi sono mangiato una banana, sono appena entrato dalla palestra ed ero leggermente sotto riserva, per cui per recuperare un pochettino è subito la banana. E non ci prendere il sabato perché sai che va e pure. E anche tu hai ragione, ho già, poi casomai ti piace pure e sei fregato. Poi diventi come Ratta Pignara che... per carità, la vergogna. Marco! Ehi, un attimo, mi stavo sgroppando la voce. Ehi, sì, la banana è un frutto che mangio, non c'è bisogno del coltello per sbucciarlo, è una cosa veloce che... Certo, magari l'apporto nutritivo non è un granché, non credo che abbia molte vitamine. Cosa contiene la banana? Potassio, mi pare. Ne sapete niente? Eh sì, potassio. La muscolatura è eccezionale. Eia. Sì, è bella veloce, capito? Non... Da aprire così con la Nutella poi, come ho detto prima. Nutella e banane, mamma mia. Se potessi farmi le piadine come le avevo assaggiate una volta. Però non so come fare l'impasto per la piadina, non so cosa si metta, non le ho mai fatte. Cosa fare? Ci ha comprato anche il tegame per fare. Mia figlia, però non so come le fa, va bene. L'ho vista facendole, ma non è che ho guardato cosa ci mettesse. Sì, ti prepari il liquido, no? Poi come lo metti sulla piastra, subito si scalda, si rapprende. Un po' prosciutto e formaggio, anche le piadine lì, o come le vuoi chiamare, le crepe, così. Caspita, mamma mia, la bava mi sta venendo. Comunque già, tu fai molto bene col cane. Vedo che quel cane mangia roba sana, roba fresca, verdura, calda, insomma, è nutrito bene quel cane. Anche perché, sai, essendo di razza, tutti i cani, anzi, dovrebbero essere nutriti bene. Però invece certi vanno dal macellaio a chiedere, visto le frattaglie, i residui. Cioè, usano il cane come immondizia, gli danno i residui del pranzo, della cena. Non si tratta così un cane, un qualsiasi razza sia, ecco. No, io, guarda, ho tratto come il cane, dico la verità, forse esagero anche, do un cane, ma che ne serve. Però, cioè, per me, Marco, lo sai, è come se avessi un figlio, mi fa tanto di quelle feste, mi coccola quando mi vede giù, cioè, è come una persona. Eia, sì, è una brava indole quel cane. E ho visto che poi quando mangia tutto, si finisce tutto. Non è come quei cani, lo annusa, mangia un boccone e poi lo lascia. Quello se lo finisce tutto, quindi vuol dire roba buona e roba sana. E che a lui piace. Io gli ho comprato le zucchine fresche, le carote, le bollite, gli ho fatto una cuccia di tantino e tira da qua. Ma ce la miraremo domani la cuccia, perché stasera ci facciamo il fegato. Ho trovato il fegato per costruire Marco, dovete vederlo. Io ci passavo, va bello, tutto bello. E niente, ho preso anche questo. con la carne di cavallo, se la fai chissà quanta polpettine, la metto in freezer, quando è tempo da mangiare, la spugliero, la metto in mezzo a pasta, che all'inizio cosa ti faccio, ti metto crocchette, pasta, e poi... Ehi, ehi, invece qualcuno dà anche solo scatolette ai cani, quelle scatolette con bocconcini, invece tu ha proprio una bella dieta, diciamo, tutto preparato fresco, capito, una roba conservata, con conservanti. Bene, bene, riprendi Salvatore. Ehi, cappa, io stavo giusto cercando di sistemare gli ultimi valori di questo microfono. Cosa vi sembra? Microfono 1 2 3 1 2 3 1 2 3, prova, Salvatore, canale 10, 1 2 3. Salvatore, sì, perfetto, ora lo devo testare in banda laterale sulle HF e voglio vedere un pochettino come si comporta. E niente, tutto qua. Adesso devo fare un po' di esperimenti. Beh, signori, io vi saluto, un grande abbraccio a tutti quanti, a te Gianni, a te Marco e a tutti gli altri amici che sono eventualmente in ascolto qui sul 10. Ciao a tutti e buon proseguimento. Bye bye, vai Marco. Ciao Salvatore, dai. Ci sentiamo, buona cena con tutto. Se già non l'hai fatta, passa ogni tanto a salutarci, dai, bene o male siamo sempre sul 10. Riprendi Gianni per i saluti. Ehi, allora, ciao Salvatore, ci sentiamo. Ci ha fatto piacere sentirti, ogni tanto lo sai, ha fatto lui, ti sei per donarci. Buona serata e buona continuazione. Ciao, ciao. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao e un abbraccio di nuovo. Ciao. Eccomi qua. Ah, io non passa più sta serata, mamma mia. 8:15, dai, fra poco finisce Bonolis, finalmente si mangia. Invece nel pomeriggio ho mangiato, primo pomeriggio, delle patatine fritte, quelle in busta, no? Però sai cosa succede? Che io le mangio anche nervosamente, anziché gustarne poche, pochino, no, tanto per il gusto, comincio a mangiare nervosamente, che non senti più il gusto e alla fine ti disgustano, lo sai, perché c'è l'olio, insomma. E infatti per gran parte della serata non avevo voglia di mangiare, cioè se mi avessero detto, oggi cosa c'ho alla lingua, se mi avessero detto mangia alle 5, alle 4, io gli avrei detto assolutamente no, non ho voglia proprio di mangiare, capito? Patatine fritte, insomma, in busta, siano tanto sane, meglio sarebbe farle sul momento, no, a dadini, a, come si chiama, stick, quelle patatine da friggere, che poi per la maggior parte già sono già prefritte, perché sono un po' biondine, no, non sono proprio crude, assolutamente no. E una volta mamma me le faceva, non a stick, perché queste stick un po' negli anni 70, fine 70, no? Questo americanismo c'era un po' meno, no? Le faceva tonde, capito? Fritte tonde, tipo quelle della busta. Ma erano buone, mica, caspita, belle croccantine uscivano. Oh, io... Dove mangio? Ma questo è un non sono un mangiatore di patate, io ho a casa patate non è cucino, non mi piace, non trovo il gusto che provo molta gente a mangiare patate. Addirittura mia moglie se la mangiava anche con le faccende, perché mangiava, se la mangiava un po' più. Oh, beh, crude non le mangeri. Però le patate io le vedo come se fosse pane. Ci puoi abbinare quello che vuoi con le patate, che siano bollite, siano fritte. Insomma, come le vuoi fare arrosto? Sono buone, siccome il pane, ci abbini una cosa, tipo pollo, le patate come se fosse pane. A me, diciamo, piacciono, a mamma ancora di più le patate, che fa insalata, no? Fa bollire poi insalata, insomma. Basta che siano, insomma, abbastanza cotte dentro, no? Ehi, vedo, tu non stravedi per le patate, dai. No, le mangio col morro. Diciamo, però non è che ci guardiamo a e poi, con lo spezzatino, facevo. No, non ho più fatto, adesso mi si guardano, ma se non sono a casa mi si guardano. Ecco, è vero. Fuori fritto... Se tu mi dai i fiori di zucca fritti, madonna, i fiori di zucca fritti, poi che ne so, mi piacciono i carciofi, i cuori di carciofo fritti, no, togliendo un po' i fogli, giustamente, le melanzane fritte, impanate fritte, mi. Le zucchine impanate fritte, non te ne dico già, quella è proprio, guarda, a livello di gamberoni, I carciofi. Anche i carciofi impanati e fritti, ma le zucchine, guarda, impanate e fritte, fatte a fette, stravedo proprio. Ma i carciofi sono meglio, se non c'è cervello. Devi fare il cervello del carciofo. Siamo una favola, impanati e fritti i carciofi. Non so se te li vai mangiare, ma eccezionale. Vedi, io cotti non li posso mangiare perché mi cucciano la pancia, mi fanno aria e cose, invece se li mangio crudi no. Ah, ecco. Ehi, tipo insalata così, cuore di carciofo. Beh, per esempio a me invece cotti non mi piacciono, ma fritti sì, mi mangio di più. Certe cose fritte sono più buone, faranno più male, però sono così buone le cose fritte, mamma mia. Invece, adesso a proposito di roba fritta, questo carnevale manco frittelle ho visto. Non ho visto nemmeno un centimetro di frittelle, niente. Almeno fai dieta. Dai, sono tanto a risalutarvi, che chiudo, che c'ho già gente. Io sono le 8, Gianni. Ciao a tutti, a domani, e forza Juve. È andato a scoprire. Sta andando, anche se non monta pure, sono un po' stanco, vabbè. Vado un po' e poi torno a casa, faccio da mangiare a casa, mangio io, da voi mi traio di vado, perché sono stanchissimo. Vabbè, ci sentiamo, là, mica il migliore. Avanti, vado. Poi, ciao Claudio, allora, buona pizzata, buona visione. Ciao Gianni, buona passeggiata e poi buona cena se la devi fare, perché io con questi orari scombinati non so più a che ora mangia la gente normale, capito? E ci sentiamo domani, tanto di sera dovrei esserci tanto per cambiare. Buonanotte, ciao ciao. Ciao Marco, se domani fa bella giornata ci telefoniamo e ci andiamo a fare il giro. Vediamo, dai, vediamo. Se non sono inchicciato, ok? Ciao già, ciao ciao. Devo pure riaccendere il telefono che è spento adesso. Ciao. Ciao, ciao.